Dico subito che gli oratori previsti assente Nichi Vendola perché per motivi familiari, quindi non ho potuto intervenire in questo dibattito. Mi comodo un po' fare un'introduzione a questa discussione, cercando, avendo anche un po' la pretesa, di vedere, di definire alcune questioni che naturalmente non possono essere limitative della discussione. Come sempre succede, i titoli poi che si danno sui manifesti sono sempre molto pretenziosi. Il confronto fra dignità comunista e sfida cristiana è una cosa che certo non si risolve né iniziative di questo tipo, né bastano iniziative di questo tipo per risolvere questa questione. In particolare quando abbiamo pensato che partiamo un po' anche dalla nostra esperienza di Rifondazione Comunista, e quando abbiamo pensato che era giunto il momento di porsi il problema della Rifondazione Comunista, noi non abbiamo pensato nemmeno per un momento che si trattasse di un fatto né esclusivamente né prevalentemente organizzativo. La nostra valutazione nasce invece dalla considerazione che è stata storicamente sconfitto un modo di pensare, un'alternativa alla società capitalistica, così come è stata storicamente concepita dalla sinistra, sia comunista sia socialdemocratica. Non abbiamo aspettato il golpe di agosto per pensare questo, né pensiamo che l'operazione fatta da Occhetto sia un tradimento del generale nei confronti del proprio esercito. Sarebbe una semplice caricatura della questione. Pensiamo invece che il PDS sia un tentativo di dare una risposta a quella crisi, che però nasce in partenza monco, perché siamo, a nostro giudizio, perché è frutto, a nostro giudizio, dell'autoannullamento della ragione stessa di esistenza della sinistra, proprio nel rinunciare di questo partito anche solo ad immaginare come possibile e auspicabile una società alternativa a quella capitalistica. In questo nostro processo di rifondazione, che non concluderemo con il congresso che ci accingiamo a fare, anzi di cui il congresso segna solo la tappa iniziale, partiamo però da alcuni punti fermi. Questi punti fermi nascono dalla necessità, e sottolineo necessità, di immaginare una società alternativa a quella capitalistica, sia nei contenuti che nella forma. Una società in grado di realizzare le esigenze della gente, sia materiali che di quelle che derivano dalle proprie aspirazioni e idealità, eliminando anche gli ostacoli che impediscono un'espressione realmente libera delle proprie idee, oggi sempre più possibilità oggi sempre più negata. Una democrazia reale non nasce che nasce non solo dall'esistenza di una libertà, che esiste, non solo sulla, che esiste solo sulla carta, ma che nasce dall'eliminazione della miseria, dell'ignoranza e di tutte le forme di oppressione, sapendo che tutto questo è una pura e semplice bugia se non si realizza in tutto il mondo e non in un solo paese. La nostra volontà di rifondare nasce quindi non dai sacri testi di Marx o di altri, ma di ritornare ad un'analisi reale della società capitalistica che ci porta a constatare che questa è capace di creare una grande quantità di beni, ma a prezzo della democrazia reale, della miseria per la gran parte dell'umanità, della distruzione ambientale, dell'appiattimento ideale e morale e quindi dell'impoverimento di tutti coloro che in questa società sono collocati in basso nella scala sociale. Abbiamo constatato che non solo i paesi del socialismo reale da questo punto di vista sono stati sconfitti per incapacità di realizzare una società realmente alternativa. Anche le ipotesi riformiste di semplice ridistribuzione del reddito mostrano la corda nel momento in cui le tendenze a livello mondiale della società capitalistica sono tali da far loro preferire la concentrazione di ogni risorsa per una gestione direttamente finalizzata a combattere la guerra, per ora solo in parte combattuta con le armi, fra le grandi potenze capitalistiche per la supremazia mondiale. Tutto questo anche a costo di eliminare qualsiasi forma di Stato assistenziale e anche a costo di fare scelte autoritarie per gestire una situazione in cui vengono meno tutte le forme di ammortizzazione sociale esistenti a livello nazionale e internazionale. E a partire da questa necessità, quella che definivo prima appunto la necessità di rifondare un'analisi, una critica alla società capitalistica, una necessità appunto, a partire da questa necessità di ripensamento e di confronto che abbiamo pensato a questa iniziativa. Abbiamo il bisogno oggi più che mai di confrontarci con tutte le posizioni, i punti di vista, le motivazioni ideali che si pongono da un punto di vista critico dell'esistente, che cercano e operano per immaginare nelle idee e nel concreto un mondo diverso dall'orrore che ci viene prospettato come migliore dei mondi possibili. Abbiamo di fronte agli occhi in particolare la necessità di pensare ai processi di liberazione come un fatto mondiale, che però non abbia al centro né gli interessi primari di uno Stato guida, né gli interessi degli sfruttati di un singolo paese, del nostro singolo paese. Oggi non esiste più un paese guida e questo è un bene, ma ha mostrato tutto il suo fondamento sbagliato qualsiasi ipotesi che abbia al centro la difesa in primo luogo, il che vuol dire di solito, anzi sempre, esclusivamente, gli interessi degli sfruttati di casa nostra. Pensiamo alla guerra del Golfo. La guerra, questa guerra, è stata la migliore propagandista di se stessa. Molta gente, lavoratori e altri, che avevano paura di essa, che all'inizio hanno anche manifestato contro di essa, dopo si sono convinti che in fondo questa guerra era per difendere anche i propri interessi e quindi era giusta o almeno inevitabile. Pensiamo a tutti quegli operai che accettano i licenziamenti purché riguardino gli altri o accettano il principio della concorrenza, cioè il fatto che si vince nel momento in cui si conquista il mercato dell'altra fabbrica, cioè si mandano a casa degli altri operai, sostenuti e convinti in questo dalla linea del sindacato. Per non parlare della questione dei lavoratori extracomunitari, che è talmente sotto gli occhi di tutti che non c'è bisogno di dilungarsi su di essa. Non si tratta di esprimere solo generica solidarietà con i popoli oppressi, è troppo poco questo. Si tratta di dire che non si può pensare che i massacri del Sudan non ci riguardano solo perché nessuno ne parla, almeno le grandi testate che fanno opinione. Il punto è che non è possibile, soprattutto oggi, nell'era della deregulation selvaggia, altro discorso che la messa in discussione di questo complessivo modello di sviluppo. Si tratta di quindi di mettere in discussione la nostra stessa vita, non come fatto moralistico individuale, per pensare che i nostri privilegi sono illusori, che si basano su decisioni e indirizzi che mai, in nessun momento, noi possiamo discutere realmente, che sono questi indirizzi che comportano un aumento della violenza anche nelle nostre società, che ci stanno portando a un aumento delle tendenze alle guerre, che portano all'emergere di tendenze autoritarie e xenofobe con un crescente consenso di massa. Pensiamo anche che questo processo possa avvenire solo se anche gli oppressi di questa società lo vedono conveniente, anche per loro stessi, se sentono anche la loro oppressione e si sentono coinvolti nella necessità di questo processo, oltre che sentirlo possibile, ovviamente. L'esatto contrario, insomma, delle tendenze oggi prevalenti. Chi in questa società sta male ha come preoccupazione principale quella di difendere quello che ha, da chi gli viene detto che glielo vuole togliere. Si tratta in sostanza di ricostruire un concetto di solidarietà che non sia né l'elemosina, che è fatta per lasciare le cose come stanno, né la solidarietà che si dà a qualcuno che sta lontano da noi, purché rimanga lontano magari. È su questi terreni che è già oggi possibile un confronto che permetta non solo di agire, ma anche di imparare l'uno dall'altro. Dalle idee e dalle esperienze, sapendo che oggi più che mai nessuno ha la verità in tasca, di confrontarsi sul terreno della solidarietà, della pace e del come si realizza una lotta di liberazione e anche dello stesso problema del che cosa vuol dire liberazione e a partire da questo discutere fra noi e in mezzo alla gente se queste cose sono compatibili con una società capitalistica. E questo è l'aspetto fondamentale della questione. Voglio infine toccare, per quanto brevemente, altri due temi. In primo luogo esiste una specificità del rapporto fra movimento comunista, così come si è storicamente costruito, e mondo cattolico. In particolare qui parlo proprio del mondo cattolico. Mi riferisco alla questione dell'articolo 7 del Concordato. Nella nostra discussione in Rifondazione Comunista cerchiamo di prendere l'abitudine di ragionare sul presente e sul futuro e a partire da questo cercare di capire meglio il passato. Proprio perché la rottura determinata dalla sconfitta storica di cui parlava all'inizio è stata troppo secca perché possiamo ridurla a defatigante ricerca delle responsabilità, più tipica dei reduci ormai tornati a casa, e noi non siamo reduci né siamo tornati a casa. Siamo però convinti della necessità di mettere in discussione il concordato con tutto quello che ne consegue in termini istituzionali, finanziamento delle scuole confessionali, 8 per 1000, eccetera. Ma soprattutto riteniamo che questo significhi pensare a un rapporto fra sinistra e credenti in questo Paese che non sia mediato prevalentemente attraverso i livelli istituzionali, vertice del partito, gerarchia ecclesiastica e partito di ispirazione cristiana. Ci interessa un confronto per interrogarci nella discussione e nell'azione sui temi prima definiti con chi a partire dal punto di vista di un credente o comunque con questa forte connotazione di base si pone questo problema. Riteniamo sbagliato invece un rapporto puramente o prevalentemente istituzionale che appiattisce la ricchezza di quello che emerge e sottolinea anche un'estraneità, una impermeabilità fra mondi che si possono anche avvicinare ma rimarranno sempre estranei. E infine un altro problema che accenno solamente, citando un passaggio di una conferenza svolta qui a Bologna 2 anni fa dal filosofo della liberazione latinoamericano Eric Dussel. In questa conferenza Dussel, alla domanda di uno dei presenti che gli chiedeva come conciliava Cristo e Marx, affermò che Cristo gli forniva la spinta profetica, ma il marxismo gli strumenti di analisi critica della società capitalistica. È un problema assolutamente strategico che non penso affatto di risolvere in questa sede. Le soluzioni a questo tipo di problema difficilmente esistono nella teoria. Lo pongo però perché credo che sia una delle questioni su cui è necessario porre le basi appunto per le soluzioni. A partire dal Concilio Vaticano II e dalla sostanziale messa da parte della dottrina sociale cattolica, insieme all'emergere di un movimento allora detto del dissenso, insieme al 68 e al più generale clima politico, si andò affermando una scelta di impegno politico e sociale diretto, non con propri strumenti, da parte nel mondo appunto cattolico, ma nei movimenti e anche nei partiti della sinistra. Sembra di parlare di un altro mondo se si ricorda la scelta socialista delle ACLI, per esempio, o la svolta a sinistra della CISL, nata, la svolta a sinistra, anche da questa spinta. La sinistra, a mio giudizio, sottovalutò la sinistra politica, in questo sia la nuova sinistra che la sinistra storica, sottovalutò, a mio giudizio, in gran parte questa svolta, sia perché ho convinta che il problema fosse che finalmente i cristiani si stavano convincendo che avevano sbagliato tutto e passavano dalla parte giusta, sia oppure considerando la cosa in modo solo strumentale, oppure perché il problema principale era quello di un rapporto privilegiato con le gerarchie politiche ed ecclesiastiche tradizionali. Con lo centesimus annus torniamo alla dottrina sociale cattolica. Fra le affermazioni di Dussel, che citavo prima, l'enciclica di Giovanni Paolo II, e qui sono ovviamente molto schematico, io sono tentato di dare ragione al 100% a Dussel, ma la questione non mi sembra così semplice, né si può liquidare tutto dicendo semplicemente una cosa vera, e cioè che l'attuale Papa è un reazionario, almeno dal mio punto di vista. Il problema allora è, e qui pongo solo degli interrogativi, che so già che in questa sede rimarranno tali, gli interrogativi sono questi appunto. Per costruire un processo di liberazione, che è il punto di incontro sta per tutti in un'analisi critica della società capitalistica di tipo marxista, pur con punti di partenza differenti. Oppure non c'è nessun incontro possibile, i marxisti e i credenti rimangono mondi separati e anzi questo è un fatto positivo magari, perché garantisce un pluralismo di ispirazione. Oppure ancora la via giusta sta in altre soluzioni intermedie a queste, oppure che altro? Lascio la domanda in sospeso. Mi rendo conto che la questione posta così è molto schematica, ma scontiamo in molti, io sicuramente, un blocco del dibattito che risale ormai a troppo tempo fa, e riuscire a capire qual è la domanda giusta significa, come molto spesso succede, essere molto avanti nella soluzione del problema. Di una cosa però siamo certi, come rifondazione, e con questo concludo il mio intervento, che la costruzione di una società liberata non dovrà avvenire sulla base dell'affermazione di una verità unica. La verità unica, infatti, è il contrario della verità, della giustizia e della liberazione stessa. Io concludo la mia introduzione. La mia intenzione era solo porre alcune questioni e quindi do la parola agli ospiti di questa discussione, in particolare per il primo intervento al direttore Nini Grizia Tressoldi. Credo che sia importante, interessante, così brevemente dire un po' qual è stato il mio iter, direi fino all'80-86 sono stato in Sudafrica, poi ho svolto un'attività dall'86 all'89 a Roma, come assistente nelle carceri per gli stranieri a Rebibbia, e poi praticamente da un anno sono alla rivista Nigrizia, imparando a fare anche questo mestiere. E quindi ecco, un po' la mia esperienza riguarda particolarmente l'Africa e il mondo nero, e direi soprattutto anche qui in Italia, da quando sono tornato, mi sono occupato molto appunto degli stranieri, soprattutto quelli in carcere. Ecco, ma vorrei semplicemente così delineare alcuni punti che secondo me sono importanti, punti di riferimento per capire un po', direi, l'esperienza cristiana, ecco, partendo non dal punto di vista occidentale, ma da un'esperienza appunto africana, diciamo. Ecco, io credo che l'Africa quest'oggi sperimenta ancora il colonialismo occidentale, sotto, direi, due forme, colonialismo economico e colonialismo culturale. È noto che circa 30 anni fa la maggior parte degli stati africani hanno ottenuto l'indipendenza e via via poi fino agli anni 75, l'80 con lo Zimbabwe, tutti gli stati hanno ottenuto l'indipendenza politica, però sappiamo bene come nessuno di questi stati africani ha ancora raggiunto l'indipendenza economica. Ed è un dato di fatto che l'Africa oggi conta ancora di meno di quanto contasse 10-20 anni fa. Si parla e si calcola che negli affari internazionali l'Africa conta soltanto per il 2% dell'intero volume di affari, di interscambi commerciali nel mondo. In altre parole, se domani tutto il continente nero venisse inghiottito, il mondo continuerebbe, non si accorgerebbe neppure minimamente della scomparsa di circa 650 milioni di persone e delle loro ricchezze che posseggono in questo continente. Quindi veramente, ecco, parlare di indipendenza economica sembra una cosa ancora molto lontana da raggiungere, poi perché permangono molto forti i vincoli di dominio e di colonializzazione da parte dell'Occidente. Ecco, direi che questo dato di fatto va visto soprattutto alla luce degli avvenimenti di quest'ultimo anno, anno e mezzo in Africa, che purtroppo sappiamo come non abbia avuto il necessario e il dovuto risalto sui nostri mezzi di informazione, troppo impegnati, occupati, direi giustamente in questo caso, a descrivere, ad illustrare quello che è successo nell'est europeo. E quindi poi, una volta terminato l'evento dell'est europeo, perlomeno gli fatti più eclatanti, c'è stata la guerra del Golfo e quindi questo, diciamo, ha fatto la parte del leone, impedendo all'opinione pubblica in Italia di conoscere veramente quello che sta succedendo oggi in Africa. E direi, in Africa sta soffiando un vento di democrazia che ha fatto crollare praticamente già molte dittature di ispirazione marxista-leninista, ma anche di ispirazione capitalista, legate quindi all'Occidente o all'Unione Sovietica o a Cuba. Quindi stanno cadendo queste dittature o attraverso elezioni libere oppure attraverso sommovimenti e rivolte. Però pare che ultimamente proprio prevalga questo modello di una transizione non violenta. Prendiamo il caso per esempio del Benin, che nell'ultimo anno e mezzo è passato dalla dittatura di Mathieu Kérékou, che da 18 anni era al potere. Il paese ha costretto, anche attraverso certo l'influenza della Francia, ha costretto quest'uomo, il presidente Kérékou, a iniziare questo processo di democratizzazione, dando inizio alla conferenza nazionale nella quale erano rappresentati tutti i partiti, i vari movimenti. Ebbene, questa transizione ha avuto il suo esito finale nel marzo scorso, quando ci sono state le prime elezioni libere dall'indipendenza, e in queste elezioni è stato sconfitto Kérékou e al suo posto è stato eletto Soglo. Quindi l'esempio del Benin però è stato un po' un esempio che ha trascinato poi anche gli altri. È stata poi la volta del Congo, il Mali è in una posizione ancora abbastanza fluida, però è caduto Traoré nel marzo scorso proprio sotto la spinta della piazza. Sappiamo come stanno avvenendo cose molto simili anche in Togo, dove la conferenza nazionale è stata indetta, ma Eyadema si è impaurito di fronte ai rappresentanti di questa conferenza nazionale, che hanno accusato senza mezze misure le corruzioni, i soprusi, i massacri compiuti da questo regime e ha sospeso i lavori, riprenderanno, si pensa, a gennaio, e si prevede per giugno dell'anno prossimo le prime elezioni libere. Altri stati hanno cercato di evitare il confronto con questo nuovo vento di democrazia, cercando di svuotare e snaturare queste conferenze nazionali. Ci ha provato Mobutu, ci sta provando ancora, che in un mese e mezzo ha incaricato un primo ministro e ne ha per deporlo poi quasi subito, introdurne un altro, deporre anche questo, e l'altro ieri ha incaricato Nguza Karl Bond come primo ministro, ma sappiamo come questa è una manovra di Mobutu per cercare di rimanere in sella. È uno dei, senz'altro, delle persone più, dei dittatori più feroci, e che si è arricchito proprio alle spalle del paese. Si parla che abbia un capitale nelle banche del mondo, ecco, soprattutto in Svizzera, di circa 10 miliardi di dollari. Ecco, quest'uomo cerca di barcamenarsi e di evitare questo confronto con la conferenza nazionale. In altri paesi, come lo Zambia, 31 ottobre scorso, il presidente Kaunda è stato deposto, appunto, con le elezioni, che hanno dato invece la vittoria a un sindacalista, questo Lekba Wałęsa Nero, che è chiamato Frederick Chiluba, e che quindi inizia questo nuovo cammino di democrazia, di multipartitismo. Ecco, direi, l'Africa oggi vive questo momento particolarmente cruciale e, in un certo senso, anche favorevole, ecco, verso una democrazia. Certo, la domanda fondamentale rimane: come potranno gestire una democrazia, ecco, senza le possibilità di uno sviluppo economico? E quale sviluppo economico? Ecco, oggi sappiamo benissimo come è crollato, appunto, l'Unione Sovietica, quest'altro punto di riferimento, questo sistema economico alternativo a quello capitalista, è rimasto soltanto il sistema capitalista. E ci domandiamo veramente in che misura potranno realizzare il loro sogno di una maggiore libertà, ecco, senza uno sviluppo e un progresso economico, quindi divincolandosi invece da quelli che sono i legami e i condizionamenti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Ecco, io penso veramente che è un momento particolarmente critico, ma anche interessante da valutare, proprio perché l'Africa sta vivendo, in un certo senso, una sua seconda indipendenza. Ecco, dopo l'indipendenza politica si sta scrollando di dosso queste dittature, questi regimi che hanno dissanguato questi paesi e hanno sfruttato la gente, che quindi la gente stessa, ecco, è stufa e stanca e vuole una partecipazione al potere. Ecco, penso che il Sudafrica rappresenta un esempio particolarmente singolare, ecco, di un paese che ancora non ha raggiunto questa indipendenza politica, ma voi senz'altro conoscete molto bene la situazione. Ecco, io semplicemente vorrei dire questo, che senz'altro dal punto di vista economico sarà una nazione guida nell'Africa australe e potrà essere in grado di portare a un maggiore sviluppo anche tutto l'emisfero sud dell'Africa, che tra l'altro è ricchissimo, con l'Angola e Mozambico. Ecco, anche qui sperando che ci sia un vero cammino di pace, che tra l'altro comincia a intravedersi con l'Angola, che ha siglato il trattato di pace il 31 maggio scorso, il Mozambico, le cui trattative di pace sono ancora in corso, appunto a Roma, attraverso sponsorizzate dal governo e dalla comunità di Sant'Egidio, e anche qui si prevede che si possa arrivare entro l'anno prossimo a un cessate il fuoco ed un negoziato per iniziare il cammino di un cammino, diciamo, di democratizzazione e finalmente di elezioni libere. Ecco, tuttavia, ecco, direi che il Sudafrica quest'oggi, ecco, vive questo momento particolarmente delicato. Il presidente De Klerk ha iniziato lo smantellamento dei pilastri, diciamo, delle leggi che sono i cardini del sistema, di questo famigerato sistema dell'apartheid. Tuttavia, anche qui c'è da sottolineare una cosa. Ecco, è stato abolito, per esempio, la legge che fissa le residenze a secondo della razza, è stata abolita anche la legge della distribuzione della terra, della divisione della terra, che determina, appunto, che i bianchi abbiano l'87% delle terre e i neri, che sono la stragrande maggioranza, soltanto il 13%. Ecco, questa legge è stata finalmente depennata, tuttavia non c'è stato nessun passo ecco, per una vera ridistribuzione delle terre. Quindi l'inganno che sta sotto a questo è proprio in questi termini, che se da una parte l'impianto legislativo è stato praticamente smantellato, dall'altra parte rimane in piedi questo apartheid, questa discriminazione, questa separazione a livello economico. Quindi poco importa ai neri che vivono a Soweto o a Mamelodi fuori Pretoria, ecco, se possono acquistare una casa in centro Pretoria o a Johannesburg, quando il loro salario è circa un decimo di quello dei bianchi. Ecco, quindi è impossibile per loro pagare un affitto, o a malapena riescono a pagarlo nella baraccopoli, tantomeno potranno permettersi neppure di sognare di cambiare residenza e andare a abitare in una città dei bianchi. Però la legge non esiste più, quindi ufficialmente è permesso, ma di fatto continua e permane questa discriminazione economica, che è molto più sottile, ma che di fatto ci impedisce di vedere un vero cambiamento della realtà. Ecco, dal punto di vista però direi, ecco, culturale, cristiano, ecco, mi sembra di poter dire un po' questo, che nella mia esperienza ho potuto constatare come veramente è difficile parlare, ecco, di cristianesimo in un paese come Sudafrica, dove questa dottrina cristiana è stata usata per legittimare uno dei sistemi più disumani che l'uomo abbia potuto mai inventare. Ed è la cosa che mi ha sempre più colpito, vivendo in mezzo alla gente, soprattutto vivendo tra i neri con i quali ho lavorato, ecco, è vedere come il cristianesimo, che alla base porta questo messaggio di uguaglianza tra le persone, nel caso del Sudafrica abbia veramente creato un baratro tra neri e bianchi, creato una disuguaglianza dove le persone non sono uguali, ma al contrario, dove il bianco considera il nero un servo, uno schiavo, e il nero ha lentamente poi interiorizzato l'immagine del padrone e quindi si sente lui stesso schiavo. Per cui forse adesso senz'altro qualche cambiamento c'è stato, tuttavia anche qui il cambiamento culturale è ancora molto lento, e non è una cosa difficile riscontrare come i neri che ti incontrano per strada ti salutano dicendo buongiorno padrone, e se tu cerchi di dire loro non sono padrone di nessuno, difficilmente ostentano a credere che tu veramente parli seriamente. Ecco, perché nella loro cultura è stato praticamente inserito questo virus, questa tremenda separazione, per cui i neri si credono inferiori ai bianchi, questo grosso complesso di inferiorità che ancora si portano dentro. Ecco, il movimento per esempio di Steve Biko e della coscienza nera è partito proprio da questo presupposto, cioè che non è possibile una vera rivoluzione in Sudafrica, anche una rivoluzione politica, senza aver fatto prima questo cambiamento di una psicologia dell'individuo e collettiva, dove il nero ritrova la propria identità e la propria fierezza nella sua negritudine. Quindi questa grossa sfida permane, ecco, di un cristianesimo che ha benedetto e consacrato questa discriminazione, questa separazione di razze, favorendo i bianchi e invece sottomettendo la popolazione nera. Ecco, d'altra parte c'è un altro esito nefasto di questa discriminazione razziale, è il grande risentimento che i neri provano verso i bianchi. È un risentimento viscerale, profondo, è fatto di secoli appunto di oppressione, di discriminazione, di umiliazioni, e che difficilmente potrà essere superato. Ecco, molte volte mi sentivo dire dai giovani soprattutto, che mi dicevano: voi bianchi ci avete portato la Bibbia, con una mano ci avete dato questo libro sacro e con l'altra ci avete rubato la terra. Ecco, sono certo sfide molto grosse, ci fanno pensare veramente che cosa è possibile fare in queste condizioni. E non solo questo, ma cioè che significato ha parlare di cristianesimo in questa situazione? Si parla di una fede cristiana in termini nuovi e diversi. Ecco, quello che sorprende, continua a sorprendermi, è che questo cristianesimo strumentalizzato a fini economici e politici a favore di una minoranza bianca è purtuttavia un messaggio che ha un futuro davanti, ed è un futuro quando vedo appunto persone come Bees Naudé, questo bianco della chiesa olandese riformata, di origine di una famiglia militare boera, quindi destinato ad essere senz'altro il moderatore della chiesa olandese riformata in Sudafrica, che vivendo la sua prima esperienza di pastore proprio a contatto con i neri, vedendo le loro sofferenze e ingiustizie subite, ha cambiato e si è convertito. È diventato un uomo diverso. Negli anni 70 ha fondato l'Istituto Cristiano per informare i bianchi in Sudafrica delle condizioni tremende nelle quali vivono i neri. Il suo istituto è stato chiuso, è stato processato e negli anni 80 ha vissuto per 5 anni al bando, quindi non poteva incontrare nessuno se non una persona sola alla volta. Quest'uomo oggi senz'altro gode di grandissima stima e rispetto da parte di tutta la popolazione. Un esempio, non l'unico, ma senz'altro uno dei più belli e significativi di come anche nella popolazione bianca, ecco, questo fermento cristiano è riuscito a scardinare questa impalcatura che ha legittimato appunto interessi che non sono niente a che fare con il Vangelo. Ecco, dall'altra parte però ci sono anche neri che hanno vissuto l'esperienza tremenda dell'oppressione e della repressione bianca e che nonostante questo non nutrono sentimenti di risentimento e di odio. Ricordo la testimonianza di un pastore del Venda che in un suo intervento all'Arena a Verona qualche anno fa diceva: odio il sistema dell'apartheid ma amo P.W. Botha, a quel tempo il presidente del Sudafrica. Certo, non erano affermazioni gratuite, era un uomo che ha patito, che ha vissuto il carcere, la tortura e che ha questo grandissimo coraggio di sfidare questo sistema e l'ipocrisia che in esso è nascosta. Ecco, io credo veramente che per il Sudafrica, ecco, ci sia questa grossa sfida ancora davanti, ecco, come il cristianesimo possa diventare da uno strumento di oppressione, diventare messaggio di liberazione per i neri e per i bianchi oggi. Direi come ultimo riferimento, direi proprio quello come missionario, direi mi sento parte in causa quando penso appunto come anche per noi c'è stato un cammino, senz'altro non privo di tante pecche, ecco, e direi che la Chiesa ancora oggi è lontana, ecco, dal capire come il cristianesimo possa veramente non solo riconciliarsi ma inculturarsi, trovare come espressione propria e naturale la cultura nera africana. Ellen Kuzwayo, che è una nera scrittrice nera sudafricana, in un suo bellissimo libro intitolato Call Me Woman, chiamami donna, ecco, diceva che da piccola è stata battezzata e come da giovane aveva dovuto scegliere tra due realtà, o essere africana o essere cristiana, e scelse di essere cristiana e descrive appunto nella sua autobiografia come questo aveva comportato per lei appunto separarsi dalla sua comunità, non poter accedere ai riti degli antenati, alle tradizioni che accompagnano il ciclo naturale della vita, dalla nascita alla morte, e come si è sentita molto spesso una lebbrosa tra la sua gente, proprio perché non poteva partecipare in virtù della proibizione che c'era da parte della Chiesa a questi riti, a queste tradizioni locali. Ecco, direi oggi la sfida grande per noi come Chiesa, come missionari, è proprio quella di riuscire a capire come questo cristianesimo non solo può appunto conciliarsi, ma è necessario che per essere tale assuma la cultura del posto e trovi in essa le espressioni per essere se stesso, ecco, per non essere un'importazione dall'esterno e tantomeno una imposizione. Cioè occorre arrivare alla conclusione che si può, non solo si può, ma si deve essere cristiani e africani allo stesso tempo, senza arrivare ad una schizofrenia tra queste due realtà. Ecco, io vedo necessario appunto un cammino che qui, un cammino grande e di purificazione, e dove anche le chiese, soprattutto le chiese occidentali, hanno molto da imparare da tante chiese cosiddette indipendenti in Sudafrica. Non parlo di sette, che è un altro fenomeno, è un fenomeno abbastanza recente e molto devastante, ma parlo invece delle chiese indipendenti, cioè da quelle che sono staccate dalle chiese istituzionali occidentali e hanno iniziato appunto questo cammino di una africanizzazione del cristianesimo, cioè assumendo le tradizioni, i riti, i modi di essere della cultura africana, e per poterli vivere così in un modo cristiano, ed l'hanno dovuto fare indipendentemente, quindi al di fuori di queste chiese. Ma direi che è giunto il momento che anche noi come Chiesa cattolica, le chiese istituzionali, ecco, recepiamo questo messaggio, che è importante dare spazio a queste culture, perché anche la nostra cultura occidentale è stata la culla nella quale appunto si è sviluppato il cristianesimo, tanto più è legittimo la loro aspirazione ad un cristianesimo africano. Ringrazio padre Tessoldi e la parola a Paolo Sbatti, pastore della Chiesa Evangelica Metodista di Bologna. Grazie. Venendo dopo chi ha avuto un'esperienza in paesi in cui l'effetto devastante del capitalismo che ha seguito o che comunque è stato finalizzato nel colonialismo, e avendo sentito citare alcuni miei colleghi pastori del Sudafrica in particolare, mi sento un po' intimidito in effetti. Io vorrei partire da brevissimamente, molto modestamente, questa accezione comune, questo luogo comune che negli ambienti intellettuali in genere circola da tempo, e cioè che il capitalismo sia un figlio del protestantesimo, come anche sociologi, economisti, soprattutto direi di chiara fama, vanno scrivendo dopo aver letto male Max Weber, non avendo capito niente di Max Weber in effetti, così come se fosse uno slogan da poter sbandierare in 448, tant'è vero che mi è venuto il sospetto che tra i vari lettori distratti di Max Weber ci fosse anche il Papa Giovanni Paolo II, quando afferma, come ha fatto in varie occasioni, di essere un paladino della lotta al capitalismo nei nostri giorni, e poi scrive la Centesimus Annus. Allora, quest'idea che il capitalismo o il sistema capitalistico, oggi si usa dire anche del liberismo, no? Per non usare la parola capitalismo, come figlio del protestantesimo, è un'ipotesi simile a quella, tutto sommato, per la quale Calvino fu, per la borghesia del XVI secolo, quello che Karl Marx è stato per il proletariato del XIX secolo. Sono due cose completamente distinte e diverse. È affascinante, se vogliamo, l'idea, se si pensa che nel XVI secolo la necessità di un riscatto degli abitanti fuori dalle città, che erano quelli dove o perlomeno le forze non contavano politicamente, sia dovuto a Calvino, ma Calvino forse non ci ha neanche pensato in effetti. Che comunque sia successo a livello sociologico ed economico che la borghesia emergente si possa richiamare fin da Calvino, non so se gli storici, qui abbiamo uno storico fra noi, ce lo potranno in qualche modo dimostrare, ma non è, credo, un elemento interessante, anche perché poi la borghesia prese il sopravvento un po' più tardi, sono passati due secoli da Calvino fino ad oggi. E parlare quindi di, così superficialmente, di origine del capitalismo nella riforma protestante è quantomeno azzardato. Al massimo si potrà dire che il protestantesimo ha dato alla irrequieta e nascente così borghesia fin da quell'epoca, in qualche modo, una coscienza teologica del suo ruolo storico, soltanto che quella era un'operazione popolare che veniva svolta in quell'occasione. Qui potrebbe anche essere, ma in effetti la borghesia non fu al potere con la riforma, né la generazione successiva, né la terza generazione, né la quarta, ma passarono due secoli. La sua funzione e posizione nella costruzione del capitalismo, che io penso, non so, qualcuno mi potrà correggere perché non sono un esperto né uno storico, che cominciò a essere egemone soltanto nell'Ottocento, era assolutamente imprevedibile. Così le scelte liberistiche e capitalistiche del protestantesimo, quello sì, dell'Ottocento, non possono essere fatte risalire né a Calvino, tantomeno a Lutero, né comunque alla Riforma. D'altra parte, invece, guarda caso, proprio a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento nasce, e questa volta sì, solamente all'interno del protestantesimo europeo, e svizzero in particolare, un po' strano questo fatto, ma è accaduto così, il movimento del socialismo religioso o del socialismo cristiano. Due nomi, ma sono sconosciuti alla maggioranza degli italiani, Hermann Kutter e Leonhard Ragaz, il primo è morto nel 1931, il secondo nel 1945, due pastori svizzeri, hanno cominciato a predicare, in effetti, proprio così, a predicare dei pulpiti il socialismo cristiano. Avevano letto Marx e l'avevano letto abbastanza bene, e l'avevano letto in maniera che assomiglia a volte a una lettura che ai tempi miei, quando io vivevo un po' già da vecchio, il 68, era un po' da extraparlamentare di sinistra, è un pochino radicaleggianti, non alla pannella intendo, ma nelle loro scelte, proprio in quanto credenti, e che avevano anche letto quello che un pastore anglicano, un certo Charles Kingsley, aveva scritto tempo prima, poi la sua rivista era stata offuscata, non proibita, perché in Inghilterra non si usava, dalla Chiesa comunque anglicana. Il titolo di questa rivista era Il socialista cristiano. E su questo ci sarebbe da riflettere da parte di storici del cristianesimo moderno, e anche da parte, direi soprattutto da parte mia, da parte nostra, della mia parte di cristianità, che è appunto il protestantesimo di oggi. C'è da dire che all'epoca in cui questi pastori, seguiti da moltissimi altri nell'Europa, specialmente appunto centrale, di lingua tedesca, svizzera e tedesca, e in qualche modo anche da noi in Italia, questa idea del socialismo cristiano sorgeva mentre nel protestantesimo europeo era ancora articolato in tre orientamenti fondamentali. Li ripeto perché poi si ripercuotono a livello politico e a livello anche di etica dello Stato, in qualche modo. Uno era il protestantesimo liberale, così viene definito, in cui più che i problemi della fede interessavano i problemi della morale, non dell'etica intendo, la morale del comportamento spicciolo, se vogliamo così. La religione veniva risolta in cultura, e poi nella fascia più intellettuale dei membri delle comunità, e quindi quelli che poi esprimevano la classe politica, pensiamo alla Germania, alla Francia, nella piccola ala protestante ma piuttosto forte politicamente, e così anche in Inghilterra, nonché nei paesi scandinavi, in etica e razionalità. Quindi una visione della propria fede piuttosto borghese, in cui si teorizzava il chiudersi nel finito, nel contingente. E c'era anche il secondo fenomeno protestante dell'epoca, a cavallo del secolo, ma che perdura ai nostri giorni, quello più, lo protestantesimo più o meno ortodosso, che si opponeva alla razionalizzazione della realtà in nome del miracolo, dell'ispirazione religiosa, dell'attesa della fine del mondo, che praticamente predicava il distacco totale del credente dai problemi della politica. Questo è sempre stato il cavallo vincente di una chiesa al servizio del potere, predicare il distacco da queste cose, estraniarsi dai problemi reali, in un tempo in cui diventava sempre più, siamo a cavallo dal secolo scorso e questo secolo, ma i problemi rimangono molto simili spesso, in cui la massificazione prodotta dall'avanzamento industriale e dall'arroganza padronale, diciamo della classe padronale, rendeva sempre più dura la vita dei lavoratori dipendenti. Terzo fenomeno contemporaneo era quello del protestantesimo pietista, che era anticapitalista, assomiglia a certi anticapitalismi moderni, ma era individualista, per cui ciascuno nel rifugio della propria anima o spiritualità esauriva in fin dei conti la forza della sua protesta nei confronti della disumanizzazione della società e prodotta dal lavoro tipo catena di montaggi, vi discorrendo, ma trovava poi conforto in questa sua questo suo rifugio nella spiritualità. A questi tre momenti di esperienza cristiana, possiamo dire, nell'ambito protestante, è seguito dopo la Prima Guerra Mondiale e il crollo della fiducia nell'uomo che aveva il protestantesimo liberale, il crollo della possibilità di attendere che il miracolo avvenisse nella pacificazione degli animi, il crollo anche della possibilità di fuggire dalla realtà, ecco che la ripresa della ricerca teologica che si rifaceva alla riforma, alle origini quindi della riforma, ha prodotto l'atteggiamento fondamentale che oggi si può dire ancora ha le sue conseguenze dell'essere credenti nella storia, vivendo quindi i problemi della storia e quindi con molta lucidità affrontare quelli che sono i problemi economici, sociali e politici in cui le persone e non soltanto le chiese ma la gente realmente vive. Quindi una teologia alla base di una riscoperta che la fede cristiana, così come la riforma l'aveva in qualche modo riscoperta dal Nuovo Testamento, non era conservatrice ma innovatrice e non ammetteva più alcuna possibilità di udienza a un potere diverso da Dio sull'uomo, quindi né la gerarchia ecclesiastica né lo Stato borghese né ovviamente la classe capitalistica. La rivoluzione teologica di questo periodo è quella che noi andiamo a definire movimentata da Karl Barth, il teologo principe di questo secolo, non soltanto per l'area protestante ma direi per tutta la riflessione teologica della cristianità del nostro XX secolo, quindi la sua scuola è... ha preso il posto di Barth poi nella Università di Basilea. Un nome che forse è più noto di questa stessa scuola, Dietrich Bonhoeffer, che pagò con la vita il suo essere antinazista. E in fin dei conti è stato ripreso da questa scuola teologica che oggi continua a fare scuola, tra noi perlomeno, quello che Kutter e Ragaz, socialisti, cristiani, all'inizio del secolo e fino, perché no, anche agli anni con Ragaz, fino agli anni stessi di Barth, predicavano. Socialisti ma non socialdemocratici, ci tenevano molto a dirlo, a specificarlo, trovavano che la socialdemocrazia era un trucco per mantenere il potere da parte del padronato a scapito ovviamente dei lavoratori. E erano attenti infatti, e Barth anche lo fu, a non cadere nella tentazione di proporre un socialismo centralizzato. Ed erano abbastanza profeti, tutto sommato, perché erano diffidenti verso ogni possibilità di socialismo di Stato. Non si usava ancora parlare di socialismo reale allora, ma certamente loro parlavano contro ogni tentazione di centralismo democratico, perché era una contraddizione, secondo la loro visione della uguaglianza e della libertà. Per il ragazzo, ad esempio, capitalismo e liberismo economico non possono fare altro che mettere gli uomini gli uni contro gli altri, ma non è forse ancora così? Io adesso devo fare una parentesi, c'è un dente avvelenato contro un amico e compagno che, siccome gliel'ho anche detto, lo posso citare, si chiama Biagio De Giovanni, che sicuramente i compagni del PDS conoscono bene, è un mio amico da tanti anni fa, prima che diventasse eurodeputato, prima che diventasse rettore dell'università e via discorrendo, quando io ero pastore a Napoli. Biagio De Giovanni, nella sua Nottola di Minerva, ha cominciato a teorizzare questo assunto: non c'è possibilità di democrazia se non in una società capitalistica. Me lo ha ripetuto anche l'inverno scorso, l'ultima volta che ci siamo visti parlando di cose serie, ci siamo visti ancora ma così semplicemente, e dicendo non c'è possibilità di democrazia se non nel capitalismo. Ora, io trasecolo, perché in effetti mi pare che sia un po' strano, è vero che certe nuove linee, queste tendenze vengono dette anche da altri, ma io con lui continuerò a litigare, specialmente quando poi parliamo lui di filosofia, io di teologia, e arriviamo poi a cercare di vedere cosa questo significa nella pratica della nostra testimonianza di persone che vivono nella società e credono nella possibilità di un riscatto, non si usa più dire del proletariato, diciamo così, della gente comune, se vogliamo. Ora invece, secondo il protestantesimo, chiamiamolo socialista se volete, il socialismo pone il problema della vera comunità umana, e il Ragaz diceva questa comunità umana vera, in cui si possa parlare senza vergognarsi di solidarietà, deve essere ricercata la liberazione dopo le devastazioni compiute dall'organizzazione capitalistica e del lavoro e della società e della politica. Mi soffermo di più su questo Ragaz perché mi è sempre stato più simpatico, poi lo capisco meglio, più del Kutter, e gli diceva: la vera comunità deve saper trovare l'equilibrio tra la persona singola e la collettività, e insiste sui diritti del singolo accompagnati da quella che egli chiama, è un credente, la legge del fratello. Solidarietà, dice lui, è la più alta legge del mondo. Ovviamente poi, potrei citarvi vari pezzi, vari brani, lui cita spesso e volentieri Carlo Marx. Ora, io ho voluto fare questa piccola premessa, ma adesso arrivo immediatamente alle certe conclusioni, perché affermazioni come diritti del singolo, collettività, solidarietà, le sentiamo dire da varie parti e vengono condivise poi da molti cristiani, anche istituzioni cristiane a livello ufficiale vengono proclamate nei discorsi, e apparentemente, dico apparentemente, le dice anche l'attuale Papa. Ma proprio nella sua enciclica Centesimus Annus, mentre egli afferma che la Chiesa non ha dei modelli sociali da proporre, sono parole testuali sue, ne accetta poi uno in maniera esplicita, cioè quello del capitalismo. Dice di volerlo combattere e poi accetta che cosa? Lui scrive che vuole una società del lavoro libero, dell'impresa e della partecipazione. Quindi una società basata sul mercato, sulle leggi del mercato. Anche se, egli dice, questo mercato deve essere opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo Stato. Quindi il modello di questo tipo di cristianesimo ufficiale, perché io so bene che i cattolici poi come persone e anche come movimenti, alcuni movimenti non la pensano affatto così, il modello è un capitalismo in cui ci si sforza di eliminare però, lui dice, le carenze umane. In fondo un capitalismo socialmente finalizzato, un capitalismo dal volto umano, potremmo quasi dire, o perché no, usando la parola sua, un capitalismo solidaristico, polacco, solidarnosc. E il Papa insiste dicendo: il movimento operaio cattolico, quello cattolico, inserito in questo capitalismo solidale che io credo di individuare come in fine conti paternalistico, assistenziale, tutto sommato allora, lo Stato assistenziale un'altra volta, però non più, ecco, Stato ma privato, se vogliamo, i privati che fanno le loro fondazioni benefiche, vengono incontro ai bisogni della gente che sta male. E allora questo tipo di movimento operaio di stampo cattolico che egli vede sottratto ormai all'egemonia ideologica organizzativa marxista, è chiaro che lui pensa alla Polonia, esprime a livello proprio di istanze ufficiali, legali, riconosciute, la domanda di giustizia e il riconoscimento della dignità del lavoro. Guarda caso, la dignità è quella del lavoro e non quella dei lavoratori. Questa è la sua tesi numero 26 nella Centesimus Annus, che ovviamente però, e poi aggiunge, deve essere conforme alla dottrina sociale della Chiesa. Quindi Solidarnosc diventa la coscienza operaia del nuovo capitalismo alla Wojtyla. E qui, senza stare a riassumere, voglio leggere alcuni pensieri del teologo italiano Paolo Ricca, protestante, circa la Centesimus Annus. Egli dice: come già per la Rerum Novarum, così anche per la Centesimus Annus il socialismo è sostanzialmente poi allora inganno, errore, gestione fallimentare della cosa pubblica, a cominciare dall'economia. Poi si fa presto a parlare dopo l'89, vero? Il Papa, ma anche lì che socialismo era? Era socialismo? Ne abbiamo sentito prima già un pensiero che prende le distanze. Ora però il Papa non accredita il socialismo neppure di essere un portavoce dei problemi reali creati dal processo di industrializzazione, neppure come cassa di risonanza di attese e speranze delle classi più disagiate, neppure come luogo di manifestazione di un bisogno legittimo di giustizia, neppure come utile strumento critico nei confronti della società borghese. Persino il rimprovero chiaramente marxista di mercificazione e alienazione dell'esistenza umana che sono presenti nella società borghese è più, dice il Papa, basato su una concezione errata e inadeguata dell'alienazione. Del socialismo il Papa parla male soltanto e dice tutto il male possibile. Lo accusa persino di trarre alimento dalle situazioni di ingiustizia e oppressione presenti nel mondo perché le strumentalizza. Ora, su questo versante, quello cioè di un'applicazione del socialismo o dell'analisi marxista dell'economia, se vogliamo, è chiaro che ci sono delle serie di critiche da fare, obiezioni a livello politico, da parte mia anche a livello spirituale, vanno però fatto. Questo però non cancella il fatto che il socialismo è stato, e non usare la parola comunismo perché oggi sembra quasi che si rischi di essere incriminati a usare una parola come questa, il socialismo è stato e resta uno dei grandi movimenti di liberazione dell'umanità e continua oggi a essere un strumento di liberazione. Questo è il parere di Paolo Ricca, anche se condizionato dall'esperienza drammatica e negativa del cosiddetto socialismo reale. Ma non si può liquidare così una storia di un secolo e mezzo e un movimento che ha cambiato i rapporti tra le classi scompaginando le gerarchie sociali del nostro secolo, dando un contributo insostituibile all'emancipazione e avendo umanizzato i rapporti sociali nei limiti consentiti dall'assetto fondamentale della nostra società. E a questo punto c'è l'altro problema della democrazia. Quando la Centesimus Annus scrive: la Chiesa apprezza il sistema della democrazia, l'uso di questo verbo la dice lunga su cosa in effetti si intende, perché parlare di libertà democratica all'interno di un criterio in cui la libertà è semplicemente diritto di fare tutto a prescindere dagli altri, si dimentica che in democrazia non si parla soltanto di tutti liberi, ma di tutti ugualmente liberi. In altre parole, per parlare di democrazia bisognerebbe anche poter dire libertà senza privilegi per alcuno. E finché si continua a sostenere che il capitalismo è vincente ed è l'unico ambito in cui si possa esercitare la democrazia, forse ci si dimentica che bisogna anche, perché questo sia vero, che non ci siano più privilegi per alcuno, né per ceti sociali, né per arricchiti, né per istituzioni politiche o ecclesiastiche che siano. E quindi fermo. Ringraziamo Paolo Sbaffi, do la parola a Rocco Cerrato, presidente dell'Università di Urbino. Ma gli interventi che mi hanno preceduto mi sembra abbiano già messo sul tappeto una serie di problemi che sono i fondamentali in un tentativo di ritornare a parlare di un confronto fra comunisti e cristiani. Io uso questi due termini perché mi conservo nella loro identità, anche se capisco bene che ogni processo di identità non è mai definito e quindi si ripropone continuamente. Per noi comunisti oggi, dopo tutto quello che è successo, il problema della identità dell'essere comunista si diventa ancora più pressante, ancora più difficile. Io non penso che per ciascuno di noi giovi, né come singoli né come forze politiche, uscire da questa difficoltà di una ridefinizione, di una rifondazione, come diciamo noi, della stessa identità comunista. E in questa nuova situazione, così come l'ha delineata anche prima Gianni, credo che il confronto fra cristiani e comunisti sia per sua natura, proprio per la situazione storica che stiamo vivendo, improponibile nei termini in cui si è posto storicamente fino ad ora. Certamente quello che è successo soprattutto in Italia, ma anche in altre parti dell'Europa, è stata un'esperienza che ha bisogno di essere storicamente rivisitata, perché in tanta parte è stata anche positiva. Nei momenti più alti e più positivi, a mio avviso, anche nella storia del nostro paese, questi due grandi mondi, il mondo cristiano e il mondo comunista, ha dialogato. Faccio una citazione che penso sia legittima dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista politico. Togliatti è passato alla storia del comunismo italiano per il famoso discorso che tenne a Bergamo, in questo dove affrontò il problema religioso e il problema cattolico. E il punto decisivo che in quel discorso Togliatti pose fu quello, ampliando un'analisi che poi aveva già fatto anche Gramsci, in sostanza, fu quello di dire che non si poteva vedere la coscienza religiosa semplicemente come un fatto alienante, cioè come qualche cosa che aveva un ruolo negativo rispetto ai processi di liberazione dell'uomo, ma la coscienza religiosa poteva essere uno strumento, un momento, una spinta a realizzare dei processi profondi di liberazione. E quindi in nome della coscienza religiosa si poteva partecipare a questi processi di liberazione. Così facendo, loro si poneva, nel discorso di Togliatti e Bergamo, una premessa per il riconoscimento di una possibilità di dialogo fra il mondo comunista e il mondo credente. E il mondo comunista non era necessariamente sempre attestato sulla posizione di dovere condannare le scelte fatte dai cristiani. Riconosceva che il credente poteva, in nome della propria fede, trovarsi schierato su delle battaglie, su delle posizioni che lo accomunavano alle posizioni comuniste. certamente io credo che non possiamo non tener conto di questa esperienza, ma non fermarci a quella. Io penso che la fase del dialogo è una fase finita, è una fase finita perché forse corrispondeva al periodo della guerra fredda, dei due schieramenti così delineati quali ci offriva la situazione politica europea e anche mondiale. Adesso per chi pensa di poter continuare liberamente ad essere comunista, nel momento in cui i De Profundis sul comunismo, sulla morte del comunismo, vengono così televisivamente detti a destra e a sinistra, in un senso così che a me sembra semplicemente confermare un processo di omologazione che è ormai ampio nella nostra società, e in questo momento credo che ci siano delle ragioni serie per confermare l'identità comunista, e queste ragioni serie, a mio avviso, coinvolgono anche il problema dei credenti, anche la coscienza dei credenti. A me sembra che nel primo intervento e anche nel secondo ci siano già alcuni di questi elementi. Io ne vorrei sottolineare alcuni altri, senza perdere però quelli già accennati, perché penso siano i decisivi. Noi non possiamo creare una coscienza comunista oggi se non accelerando quella prospettiva che terminava il grande testo comunista del manifesto scritto da Marx e da Engels, quando parlava ai proletari di tutto il mondo che dovevano unirsi, e quindi connotava in senso internazionalistico l'identità comunista. Un comunista è prima di tutto proletario nel senso di solidarietà con tutti gli uomini che lottano per i propri processi di liberazione. Allora, le analisi che sull'Africa abbiamo sentito poc'anzi sono analisi che fanno capire che la contraddizione di fondo, che poi è una cosa che sappiamo già, che sapete voi meglio di me, ma che la contraddizione di fondo che stiamo vivendo oggi nel mondo è la contraddizione di questo mondo capitalistico che per poter sempre di più dimostrare la propria efficienza ha bisogno di ridurre continuamente gli spazi di libertà, gli spazi di sufficienza, gli spazi anche di vita di tanta parte del mondo. Allora, io credo che la coscienza cristiana che scopre queste enormi processi di ingiustizia che il capitalismo realizza nel mondo, inevitabilmente sente che la propria scelta da parte degli oppressi, da parte dei poveri, da parte degli ultimi del mondo, è una scelta che diventa inderogabile all'interno dell'esperienza di fede. Ormai un cristiano si accorge che è su questi metri che deve impostare la propria esperienza, ma mi sembra che anche questa sia la prospettiva che i comunisti si sentono imporre dalla condizione attuale del mondo d'oggi. Chi ha parlato di morte del comunismo, chi ha suonato con entusiasmo la tromba per significare che il mondo, che il comunismo era finito, ha poi fatto un'altra affermazione. L'affermazione era inevitabile, cioè che il capitalismo non sarebbe mai finito, che questa è l'unica società possibile. In fondo l'affermazione anche di De Giovanni, che dice che solo all'interno del capitalismo ci può essere democrazia, è un'affermazione che sottende l'idea che solo il capitalismo può esistere. E poi c'è stato, lo conoscete meglio di me, quel studioso giapponese che ha sostenuto la fine della storia. La fine della storia perché ormai la storia non può più portare nulla di nuovo, no? Allora noi comunisti pensiamo che il capitalismo non sia eterno, che il capitalismo, come tutti i processi storici, abbia a finire, non perché noi viviamo così in prospettive utopiche incontrollabili, ma perché storicamente i comunisti sono attaccati alla storia e storicamente non c'è niente che dura sempre. Dire un fatto storico vuol dire un fatto transiente. Ma mi sembra che anche il credente, il cristiano, sia uno che non può accettare così un giudizio di così ottimistico sulla storia, fino a pensare che l'attuale sistema, l'attuale modo di produrre, l'attuale civiltà, con tutti i suoi limiti che abbiamo sentito, possa essere un sistema imperitore, no? Allora, certamente è facile fare questa affermazione così come prospettiva, diventa difficile cercare di tradurre in un'analisi puntuale che cosa vuol dire essendo al centro del sistema, avendo la disgrazia, la fortuna, la fortuna perché stiamo certamente meglio, no? Ma la fortuna nel senso, ma la disgrazia nel senso che dobbiamo avvertire che le nostre responsabilità sono molto gravi, anche se cerchiamo e pensiamo di voler trasformare e cambiare questo mondo, rimangono per quella parte di solidarietà che inevitabilmente il nostro modo di vivere ha con questa società. Le nostre responsabilità rimangono gravi rispetto al sud del mondo, perché noi siamo al centro, siamo non nelle periferie ma nel centro di questo sistema mondo. E allora tradurre concretamente che cosa vuol dire la preoccupazione di superare questo sistema, questo certo è difficile, no? Però in un momento in cui la politica sta perdendo sempre di più la sua progettualità di un mondo che vuole essere costruito su misura umana, in cui la politica diventa così il lavoro degli assessori, il lavoro dei ministri, le spartizioni dei poteri e delle parti di ricchezza che si vanno a distribuire in questa società, ecco, allora in questo momento richiamare anche queste prospettive di fondo a me sembrano importanti. C'è un altro elemento che voglio trattare, nella centesimus annus che è già citata e che tornerò a citare anch'io fra non molto, si parla del tema dell'alienazione e si dice che l'analisi che il marxismo ha fatto dell'alienazione è insufficiente. Poi Bacco, credo che l'alienazione dell'uomo sia qualcosa di così pernicioso per ciascuno di noi e per chi è alienato, che qualsiasi analisi che aiuta ad approfondire e capire i meccanismi dell'alienazione per liberarcene ci vanno bene, no? Però ecco, sul problema dell'alienazione, della mancanza di libertà per ciascuno di noi e per le società nelle quali si vive, questo è un problema che provoca la coscienza di noi comunisti e penso anche dei cristiani. Io poi sono anche cristiano, quindi mi trovo in una situazione che mi sento doppiamente coinvolto da questi dati. Il capitalismo di cui si dice che è questo valore sommo, mi sembra che abbia accentuato dei processi che erano evidenti anche 30-40 anni fa in alcune società, ma che ormai oggi sono di fronte a noi in una maniera palmare proprio. Mi riferisco per esempio al processo di mercificazione. Ormai il capitalismo, per superare continuamente le proprie crisi, perché continua ad averne le crisi il capitalismo, no? Non è, sì, è una scoperta, un'analisi seria che ha fatto Karl Marx quando ha analizzato il capitalismo, i momenti della sua crisi. E il capitalismo vive di queste crisi, e però finora, contrariamente a quello che avevamo pensato noi comunisti, ha sempre trovato il modo di superare queste crisi. Fra parentesi, le supera generalmente spostando al di fuori di sé le ragioni della crisi stessa, quindi facendo pagare ad altri le ragioni della propria insufficienza, no? Spostando i mercati, spostando le ricerche di materie prime. Di qui il problema sempre che ritorna del confronto fra nord e sud. Ma nella preoccupazione, nel tentativo di superare delle nuove crisi, deve per forza approfondire, allargare il processo di mercificazione. Ormai tutto è mercificato, no? Non solo ciò che mandiamo, non solo ciò che di cui abbiamo bisogno nel senso più esteriore, ma tutta la realtà dell'uomo è mercificata. Se ci mettessimo qui a fare delle analisi, dovremmo proprio vedere che ormai questa è una tabe che così invade e contamina tutto. Allora, in questo processo di mercificazione, lasciando stare tutti gli aspetti economici che questo comporta, io vorrei mettere in luce che mi sembra che stia provocando una trasformazione antropologica, sta cambiando l'uomo, il tipo di uomo che esce da questo processo che sta realizzando il capitale è un tipo di uomo che io chiamo capitalistico-consumistico, un tipo di uomo centrato sul consumo e sul godimento, che è apatico nei confronti degli impegni generali, che non concepisce più la politica come organizzazione del vivere comunitario, che è cinico anzi nei rapporti con la politica e generalmente diventa sempre più un conservatore e un conformista, molto lontano anche dall'uomo, dal democratico liberale che ha conosciuto il capitalismo stesso nella sua fase propulsiva iniziale. Io leggevo oggi, chi di voi ha letto il manifesto oggi, c'è un'intervista a un democristiano di sinistra, Bono, di Brescia, il quale fa uno sfogo e dice: ma dove è andato a finire il mondo cattolico? Dove è andato a finire la CISL, la CGL, i sindacati? Dove sono andate a finire le parrocchie? Come mai è possibile che un ragazzo esca da una parrocchia, da un circolo parrocchiale, da un oratorio e voti Lega? Perché Lega vuol dire forma di reazione, Lega vuol dire razzismo, no? Lega vuol dire difesa del proprio particolare, dei propri interessi particolari. Allora, se questo è l'uomo che il capitalismo produce, certamente non è un uomo comunista, certamente è un uomo contro il quale il comunismo vuole lottare, ma io penso che anche la coscienza cristiana non possa essere tranquilla di fronte a questo uomo che sta emergendo. Non può non porsi all'opposizione, non può non preoccuparsi di trovare una coscienza e una interpretazione critica di questa società, radicalmente critica di questa società, perché è nella radice stessa che va affrontata questa società se vuole essere trasformata in questi aspetti così gravi che presenta. Allora ecco, certamente io credo che tutto quello che è successo, le esperienze che il movimento socialista e il comunismo ha fatto, sono esperienze che vanno criticate. Abbiamo fatto, io dico abbiamo fatto perché mi sento pur parte di quella storia, no? Sì, credo che sì, come devo dire, è una battuta ma la voglio dire tanto per farmi capire. Alla mia coscienza di cristiano disturba molto tutto ciò che le chiese durante i secoli hanno fatto, no? E in nome di Cristo tante volte proprio, in varie parti del mondo, non solo nell'Africa, così come ha detto prima il padre, ma pensate che quell'anno prossimo si celebrerà la scoperta dell'America e l'evangelizzazione dell'America. Che cosa siamo andati a fare noi là cristiani, no? Abbiamo distrutto delle culture, abbiamo distrutto delle civiltà, abbiamo distrutto delle popolazioni, per delle ragioni che potremmo anche discutere, ma questi fatti storici sono presenti, no? Allora, tutto questo però non mi impedisce di dire e di continuarmi a professare cristiano. Capisco tutti questi grandi errori della mia Chiesa, del mio mondo cristiano, no? Però le ragioni di fondo del cristianesimo sono le prime che insorgono contro questi processi storici. Non ho imparato dalla mia esperienza cristiana a rinnegare l'essere cristiano per errori che il cristianesimo stesso ha fatto. Così io dico ai compagni comunisti che non sono credenti: non bisogna abbandonare il proprio passato e le proprie prospettive per degli errori che storicamente sono venuti. Bisogna farsene carico, starci all'interno, certamente, discuterli, farne autocritica, si diceva una volta. Certamente un comunismo che ha avuto troppa fiducia nello Stato, che ha pensato che attraverso lo Stato potesse poi realizzare questa nuova società, ha dimostrato tutti i suoi limiti. Un comunismo che pensava come grande prospettiva quello di dimostrare di essere capace di produrre così come produceva l'Occidente. Anzi, vi ricordate, Khrushchev diceva: noi fra 20 anni vi supereremo, proprio in questo. E non capiva o non pensava che invece il comunismo è prima di tutto altre cose, non quantità di produrre, no? Allora, tutte queste, tutti questi aspetti ci sono nella storia del comunismo, ma questo non vuol dire azzerare tutto il passato, no? Vuol dire però capire che non abbiamo ricette già fatte, come diceva prima Gianni. E per questo allora io credo che il dialogo va superato, proprio perché abbiamo bisogno di commistioni, abbiamo bisogno di pluralità di culture che si confrontano fra di loro, purché abbiano la preoccupazione di mettersi in atteggiamento critico, radicalmente critico, rispetto a questa società. Non accettino il mondo così, il mondo occidentale così com'è, perché il mondo occidentale così com'è non va bene, nonostante tutte le sue luci e tutte le sue magnificenze che dimostrano. Io ho parlato già troppo, volevo però fare ancora due accenni, no? Perché per noi comunisti, per noi credenti, o per i comunisti non credenti, no? Con i quali è giustissimo confrontarsi ed è anche giusto convivere insieme, no? Mi sembra che invece ci siano delle indicazioni che non vanno in questa prospettiva. Prima, per esempio, la citata già un po' Sbaffi, la centesimus annus. Io ho scritto da qualche parte che è un libro, che è una lettera che era meglio non scrivere, con tutto il rispetto, ma poi fino a un certo punto di rispetto, no? Perché dico questo? Per due ragioni fondamentali. La prima è quella che ha detto già Sbaffi, cioè che in fondo il Papa introduce delle critiche al sistema capitalistico, ma finisce per accettarlo. Questo è un punto decisivo, secondo me. Bisogna che io, come cristiano, mi sento, certo può apparire presuntuoso, pazienza, ma di resistere di fronte a un cristiano che mi dice che questo mondo qui va bene. Ha bisogno di alcune correzioni che rimangono soprattutto poi marginali, perché l'impresa viene accettata. Sì, avrà bisogno di alcuni correttivi, ma poi fondamentalmente permane. Il libero mercato permane. Tutti gli elementi strutturanti del sistema capitalistico vengono accettati, no? Poi l'altra ragione che voglio dire è questa, che invece il sistema, il mondo socialista, il mondo comunista, il marxismo, questo viene rifiutato. Il capitalismo può essere migliorato, ma il comunismo non può essere migliorato. Allora, in questa accettazione che il capitalismo può essere migliorato e il comunismo no, qui c'è una subordinazione del modo di pensare al sistema capitalistico. È il capitalismo che insegna a dire che lui può essere riformato, ma quelli che lo vogliono contestare radicalmente no, quelli sbagliano. Allora, bisogna che Karol Wojtyła si accorga che nel momento in cui fa questa affermazione, implicitamente, anche se poi dopo avanza delle critiche, entra in un quadro ideologico, che è un quadro ideologico di subordinazione al sistema capitalistico, no? Ecco, allora, tutto questo rende difficile questo che noi cerchiamo di fare questa sera, no? Rende difficile perché proprio per questa chiusura decisa che fa verso tutta l'esperienza del socialismo e del marxismo degli ultimi 100 anni, no? Sì, si appunta particolarmente sull'esperienza del socialismo reale, ma poi è tutto l'insieme che viene rifiutato. Allora, la interpretazione storica che questa prospettiva comporta, la collocazione dei cristiani che deriva da questa prospettiva storica, è una collocazione pensata in maniera antagonista rispetto a ciò che invece noi qui questa sera stiamo dicendo. Domani, se non sbaglio, comincia il sinodo a Roma, no? Cioè, non so se qualcuno di voi segue queste cose, no? Cioè, domani vengono a Roma molti vescovi da tutta l'Europa per discutere i problemi della rievangelizzazione dell'Europa, no? Convocati dalla Chiesa Cattolica per delle ragioni particolari, ma sapete che per esempio la Chiesa Ortodossa Russa ha rifiutato di venire e molte altre Chiese Ortodosse hanno rifiutato di venire. Mi interessa di nuovo di soffermarmi un momento sopra il problema del progetto che sta sotto questo sinodo, l'idea cioè che la evangelizzazione, il presentare di nuovo il Vangelo di Cristo all'Europa sia possibile ora che il sistema comunista è scomparso e che la progettualità socialista non ha più alcuna prospettiva, no? Allora questo modo di impostare i problemi, che fanno sì che la premessa indispensabile della rievangelizzazione sia la fine della esperienza socialista e comunista, questo è un giudizio storico, e spesso i giudizi storici poi si sbagliano, no? Come si sbagliavano quando si trattava di discutere il problema dell'unità d'Italia, ad esempio, no? Però è un giudizio storico che fa capire che l'attuale impostazione che la cattolicità in Europa cerca di darci secondo queste prospettive presenta molte difficoltà rispetto a un incontro fra aspirazioni, identità comunista e sfida cristiana. Non bisogna negarci questi dati che abbiamo di fronte, no? E vedere che questi dati di fronte però devono essere in qualche modo superati, perché mi sembra che se loro vengono posti, sono tutti i discorsi che ho tentato di fare precedentemente, verrebbero vanificati. L'ultima osservazione che voglio dire, che riguarda l'Italia, mi sono meravigliato che Sbaffi non abbia accettata, perché Gianni l'aveva posta, esatto. L'aveva posta chiaramente, no? Non c'è più nessun partito anticoncordatario in Italia che dica che si può discutere ancora dell'articolo 7 della Costituzione. Abbiamo un presidente che dà delle picconate alla Costituzione su problemi ben più seri, ben più gravi, sui quali non siamo assolutamente d'accordo. L'articolo 7 della Costituzione, che dice che i rapporti fra mondo cristiano e Stato devono essere regolati secondo i patti lateranensi, nessuno più lo vuole contestare, anzi sappiamo che nell'84 il Presidente del Consiglio Bettino Craxi ha ratificato tutto questo. Rifondazione Comunista e i comunisti devono diventare il partito che mette in discussione il concordato, che mette in discussione l'articolo 7. Non perché noi vogliamo così ricorrere, come qualche volta si può dire, a delle vecchie impostazioni di carattere anticlericale. No, no. Mi sembra che tutto il mio discorso, almeno anche quelli degli altri compagni, sia un discorso che non soffre di questa nostalgia anticlericale. Avremmo la presunzione di dire che certamente, assumendo una chiara posizione anticoncordataria, noi facciamo il bene, crediamo nella positività di questa posizione per la politica in Italia. Ma ci sembra, mi sembra a me personalmente certamente, che tutto questo rientri anche in una progettualità, in una identità cristiana che finalmente vuole rifiutare qualsiasi appoggio, vuole rifiutare qualsiasi commistione col potere, proprio per recuperare tutta la propria forza profetica. Voglio finire. Me la dissero a Roma quando sono andato a fare un incontro su questo stesso tema, ed è una battuta che è molto, mi è piaciuta anche come fatto, è un brano di una poesia, sarebbe una poesia di un vescovo brasiliano. Questa poesia dice che nel ventre di Maria Dio si è fatto carne, nella bottega di Giuseppe Dio si è fatto classe. Allora è una poesia che in due momenti fondamentali della esistenza di Gesù sembra faccia comprendere che la identità comunista e la identità cristiana si sono scomunicate, hanno dialogato, ma possono anche diventare due momenti che trovano argomenti per lottare insieme per la liberazione dell'uomo.